falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi racconteremo una grande storia d'amore, grande ma è anche molto particolare, la storia di una donna amata per tutta la vita da un uomo molto discusso, però un grande artista, una voce, una vocalità che è stato difficile sostituire anche dopo la sua morte, un re e la sua regina. Questo è il primo indizio di un non quiz, perché la definizione è azzeccatissima, perché il re è Freddie Mercury, cantante e leader dei Queen, e quindi parleremo del suo unico grande amore, Mary Austin. My name is Mary Austin. I'm a long-term friend of Freddie's. Lei si presenta così, è long time friend, un'amica di vecchia data, ma Mary è stata molto più che un'amica, è stata la compagna di tutta una vita, l'unica donna che il leader dei Queen abbia mai amato, lui che non ha mai dichiarato apertamente la propria omosessualità, ma non ha fatto nulla per nasconderla, a parte i travestimenti, gli atteggiamenti teatrali grotteschi che erano figli comunque di un periodo, ma in tutti i casi, insomma, era abbastanza evidente. Nel 1964 a Londra apre il Biba, la boutique di Barbara Ulanicki, una fashion designer di origine polacche, che ha aperto un negozio che diventa un punto di ritrovo di artisti e musicisti come Jagger e Bowie. È il periodo degli abiti dai colori sgargianti, allegri, vende i prodotti di molti giovani stilisti che si stanno affermando sulla scena, tra questi Elio Fiorucci, Jean Busquet di Cacharel. Facevamo parte del mondo della moda di Kensington, chiamiamolo così, e il Biba era il posto migliore dove poter acquistare gli abiti di scena. Moda underground, non alta moda, ma moda alla portata della gente. Il Biba, che è frequentato anche da Kathy McGowan, che è la presentatrice del programma musicale più famoso dell'epoca, Ready Steady Go, in realtà è un posto di ritrovo, non è un negozio, è una factory, è un luogo come quello più anni più tardi di Malcolm McLaren e Vivienne Westwood, e lì attorno a questo gruppo di persone c'è una band che si chiama Smile, dove c'è un chitarrista che si chiama Brian May e un batterista che si chiama Roger Taylor. Poi c'è questo Tim Staffel, il cantante, che però non vuole seguire la falsariga che sta prendendo questa band, e così viene sostituito con il loro amico Farrock, che si chiama Freddie Mercury. È un grafico che si diverte a disegnare gli abiti da palcoscenico, e tutti questi personaggi si trovano al Biba, dove tra l'altro ci sono anche delle commesse molto carine. Tutte le ragazze che lavoravano al Biba erano molto belle, si vestivano con gli abiti che il negozio vendeva e si presentavano in modo impeccabile. Molti di noi andavano lì solo per godersi lo spettacolo. Una di queste ragazze era Mary, Mary Austin. One of those ladies was Mary, Austin. I'd like for you and I to go romancing. Say the word, your wish is my command. May rimane colpito dalla bellezza di Mary Austin, stiamo parlando di ragazzi che hanno 25 anni, Mary ne ha 19, è normale innamorarsi di una commessa del negozio più alla moda di Kensington, che è uno dei quartieri più eleganti e lussuosi di Londra. Incontrai Mary a un concerto all'Imperial College, dove studiavo. Lei era seduta dietro di me e cominciammo a parlare. Ero molto timido, ma le chiesi un appuntamento e così uscimmo insieme un paio di volte. And we went out a few times. Lei è una ragazza molto riservata, british, è abituata a dare molta importanza ai dettagli, a leggere lo sguardo delle persone, anche perché i suoi genitori sono entrambi sordomuti e quindi lei da piccola è abituata a parlare con la lingua dei segni e a leggere le labbra, e ha sviluppato un'attenzione ai dettagli che si trasforma in un'abilità nel comunicare con le persone, cercando di intuire il loro carattere semplicemente con uno sguardo. Si fidava molto degli altri, era riservata, ma sicuramente si faceva notare per la sua bellezza. Le nostre uscite si risolvevano sempre con un drink, un bacio sulla guancia e nient'altro. Anche Freddie Mercury, il nuovo cantante della band, ha notato questa ragazza dallo sguardo profondo, chiede a Brian di presentargliela. E Freddie è un ragazzo brillante, simpatico, estroverso, molto gentile con tutti. Questo fa di lui un compagno ideale per trascorrere allegramente le grigie serate londinesi. Veniva al negozio di Rado. Molto spesso era da solo, ma il più delle volte era accompagnato da Roger o da qualcun altro. Quando passava, sorrideva e salutava. Lo faceva sempre più spesso. E credo che andò avanti così per 5 o 6 mesi e alla fine mi chiese un appuntamento. 5 mesi dopo vivevamo insieme e la cosa andò avanti per 6 anni. Eh sì, spesso l'amore è una alchimia che attrae gli opposti. Da un lato abbiamo questa ragazza timida, abituata a prendersi cura degli altri, e di là abbiamo un uomo educato, sensibile, però assolutamente estroverso, esibizionista, un artista strano fino alla follia, che però ha bisogno di qualcuno che lo protegga, che lo rassicuri. Quindi nella Londra che sta vedendo nascere uno dei gruppi musicali più importanti, cioè i Queen, che verranno di lì a poco consegnati ai grandi stadi, ai grandi successi, alla leggenda, un uomo e una donna si sono incontrati e stanno per iniziare una lunghissima e strana storia d'amore. Grandi uomini ci sono sempre grandi donne che magari rimangono nell'ombra ma riescono a cambiare la storia, e qui noi stiamo parlando di una grande donna, Mary Austin, compagna in vari modi e in vari momenti dell'immenso Freddie Mercury. Siamo arrivati al punto in cui i Queen stanno nascendo, non hanno ancora un nome. Brian May pensa a Build Your Own Boat, ma Freddie, per fortuna direi, si indirizza verso la scelta di un nome più breve e accattivante, e così propone Queen. Ricordo la massiccia capigliatura nera di Freddie, che lo faceva sembrare un reale, col suo braccio a riposo sul caminetto della casa di Brian a Barnes. Era molto orgoglioso delle sue nuove scarpe bianche. Improvvisamente si rivolse a me e mi chiese cosa ne pensavo dei nomi. Io dissi: «Oh, penso quello di Brian, Build Your Own Boat». Ma Freddie fece di testa sua, come faceva per la maggior parte delle cose. Beh, obiettivamente Queen mi sembra un'idea migliore di quella che ebbe Brian May. Intanto Mary è affascinata da questo tipo di uomo, che non è come gli altri, non è il duro che dimostra la parte muscolare degli uomini, ha un animo sensibile, determinato, sicuro di sé, ma certamente come uomo è un po' particolare. Pochi mesi dopo il loro incontro affittano una camera a 10 sterline a Victoria Road, 10 sterline a settimana, siamo a Kensington, non hanno ancora abbastanza soldi per potersi permettere un appartamento appartamento, così condividono cucina e bagno con altre persone, e questo durerà ancora un po', perché i Queen faranno i primi tre album, io me li ricordo come supporter dei ben più famosi Mother Hoople agli inizi degli anni 70, faranno ancora tre album nei quali si segnalano ma non esplodono, fino a che esce A Night at the Opera con Bohemian Rhapsody, che in qualche modo tira la volata a tutto l'album, fa sì che i Queen diventassero una delle band più famose e pagate della storia del rock. Nel frattempo Freddie e May hanno questo tipo di nido e adesso sono in un appartamento un po' più grande a Holland Road a ben 19 sterline la settimana. Fu subito un rapporto affettivo molto intenso per entrambi. Funzionò anche perché Freddie era profondamente timido e anche lei lo era. Stavano bene insieme, lo vedevano tutti. Freddie non crede al matrimonio, però i due vivono come se fossero una coppia sposata. La loro unione è un dato di fatto, il loro rapporto è basato sulla fiducia reciproca. Di tutto quello che pensano gli altri non importa nulla ai due piccioncini, Freddie Mercury e Mary Austin. Un Natale stavamo andando a trovare i suoi genitori. Mi diede un regalo grosso come una scatola di cartone. Aprì la scatola e dentro c'era un'altra scatola e così via, finché non trovai questa scatola molto piccola. Quando l'aprì, c'era un bellissimo anello egizio a forma di scarabeo. Si dice che porti fortuna. Freddie era un po' imbarazzato nel darmelo, ma fu molto dolce. Intanto i Queen cominciano a macinare successi e i due hanno una vita sociale intensa, perché Freddie sta assaporando il gusto della notorietà. Poi l'abbiamo detto, è un grande estroverso, vengono organizzate feste, però Mary conosce molto bene suo compagno e comincia a capire che Freddie il successo se lo vuole godere appieno, e nota che lui ama allontanarsi da lei e quindi comincia a crescere in lei il sospetto che ci sia un'altra donna. Si sbagliava. Gli dissi: sta accadendo qualcosa e mi sento come un cappio intorno al tuo collo. Penso che sia il momento di andarmene. Ma lui insistette che non c'era niente che non andasse. La nostra relazione si raffreddò. Sentivo che evitava ogni confronto con me. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, went down to gauge her mind. Then again, incidentally, me that way. Qualcosa sta cambiando in questa storia d'amore tra il frontman dei Queen, Freddie Mercury, e la discreta Mary Austin, bella, elegante, commessa, ma che comincia a soffrire il fatto che il successo dei Queen porti tutti a frequentare nuovi ambienti, a conoscere nuove persone. E Mary non è una sprovveduta, è molto attenta alla vita di Freddie, non le sono sfuggiti certi particolari del suo comportamento sempre più eccentrico ed effeminato. Se devo essere onesta, lo capii. So di averlo intuito quando iniziò a lavorare con John Reed. Fu allora che capii che il nostro rapporto era cambiato. Non sapevo con chi fosse o chi stesse vedendo, ma avevo dei presentimenti, anche se non ne ero del tutto certa. John Reed è un manager britannico, è stato a lungo il manager di Elton John e non solo, ha avuto con lui una relazione. E il fatto che Freddie Mercury frequenti sempre più spesso l'ambiente gay non fa che accrescere il sospetto in Mary che la sua contendente nel cuore di Freddie non sia una lei ma un lui, o forse un loro. Mary è testimone del cambiamento lento ma inesorabile che sta avvenendo nel cuore e nella mente di Freddie Mercury. fuori. Il grande colpo d'ala di questa donna però sta nel fatto che lei, contrariamente a quello che ci si sarebbe aspettato, non scappa indignata o disgustata da quello che per molto tempo è stato il suo uomo. Mary rafforza il suo legame, resta vicino al suo grande amore. So I knew that... Sapevo che non era se stesso per qualche motivo. Sembrava che stesse soffrendo per qualcosa. Non si sentiva a suo agio, era schivo. E questo atteggiamento non era da lui. Non era più la persona che avevo conosciuto. Una sera, l'incontro chiarificatore nella loro casa di Kensington, Mary e Freddie sono faccia a faccia e Freddie Mercury fa la sua prima confessione, e io la ritengo la confessione intermedia, confessa alla sua donna, tanto per cominciare, di essere bisessuale, cioè di amare lei ma di amare anche altri uomini. Freddie teme una reazione fuori controllo, ma si sbaglia perché Mary ha già capito, anzi ha ancora più chiara la situazione, perché gli risponde che quello che ha detto non è esatto. E infatti lei è convinta che Freddie non sia bisessuale, ma semplicemente gay. E questa è una porta che si chiude e una porta che si apre. Siamo intorno alla metà degli anni 70 e c'è una storia d'amore, quella tra Freddie Mercury e Mary Austin, che sembra essere arrivata al capolinea per un necessario ma anche doloroso chiarimento. Cioè Freddie Mercury dichiara alla sua donna la propria bisessualità, ma in realtà la propria omosessualità, ma lei, anziché indignarsi, reagisce. E qui c'è il grande colpo d'ala, perché il legame affettivo con Freddie Mercury diventa ancor più rafforzato. Da quel momento lei è la sua confidente e la sua più grande e forse unica amica fino alla fine. Fu un grande sollievo sentirlo dire da lui. Avere ipotizzato che quello fosse la causa dei problemi vissuti negli ultimi due anni insieme, sapere di avere più o meno indovinato, fu un grande sollievo per me. Era come se mi fossi liberata di un peso enorme. Apprezzai che fosse stato onesto e sincero con me. La consapevolezza della propria omosessualità deve essere un passo difficile e impegnativo. Dopo aver accettato se stessi, è più difficile anche farsi accettare dalle persone care, dai familiari, insomma lo sappiamo. Mary Austin ha un ruolo fondamentale in tutto questo. Un comportamento inaspettato, incredibile per modernità, accetta la situazione ed è convinta che questo possa far bene a entrambi. Cioè il legame tra Freddie Mercury e Mary Austin in un certo senso inizia proprio da quella confessione. Quando finimmo di discutere, Freddie era tornato ad essere la persona di sempre. Era rilassato, più felice. Non si aspettava che lo appoggiassi, ma sapevo che l'essere gay era una parte di lui. Era bello vedere di nuovo Freddie in pace con se stesso. Era stupendo. Cambia tutto. Cambia anche la vita di Mary Austin. I due decidono di comune accordo di non vivere più sotto lo stesso tetto. Però Freddie nel frattempo è diventato una rock star e così può fare il bello e il cattivo tempo con la sua casa discografica. Riesce a fare assumere Mary e ottenere per lei un appartamento da 300.000 sterline vicino alla sua casa, quella mitica che c'è ancora a Londra. Così Mary può essere con Freddie ogni volta che lui ha bisogno dei suoi consigli, il che accade molto tanto di frequente, ma la consapevolezza della propria omosessualità porta Mercury a vivere con grande entusiasmo ogni momento della sua nuova vita. Feste esagerate, party che durano settimane intere con eccessi che oggi siamo abituati a vedere solo in parte in un gay pride, una libertà sessuale che non conosce limiti e incautamente viene svolta senza precauzioni particolari. I received a telephone call from... Ricevetti una telefonata dal dottore Di Freddi, che voleva essere richiamato con urgenza. E io gli diedi il messaggio, ma il dottore richiamò altre volte dicendo di non averlo ancora sentito. Così alla fine capii il perché dell'insistenza del dottore nei riguardi di Freddi e mi saltò il cuore in gola. A fine 86 comincia a uscire una notizia prima detta, sussurrata, più volte smentita, negata, quella secondo cui Freddie Mercury sarebbe positivo al test dell'HIV. In effetti lui comincia anche a dimagrire, però non se ne parla. Freddie ha un atteggiamento positivo nei riguardi della malattia in privato, ne parla con quelli che lavorano con lui e che gli sono vicini, ma vuole che fuori tutti continuino il loro lavoro come se nulla fosse cambiato. Dovevamo comportarci normalmente, lo doveva fare anche lui. Se si accorgeva che eri debole, che stavi diventando troppo emotivo, allora si allontanava da te e si avvicinava di più a quelli che potevano aiutarlo per ciò di cui aveva bisogno. Love of my life, don't leave me. You've taken my love. Questa canzone, che è la celeberrima Love of My Life, è stata scritta da Freddie Mercury in onore di Mary Austin tanti e tanti anni prima. Mary intanto si è fatta una famiglia, ha avuto un figlio non da Freddie Mercury, il ragazzo si chiama Richard e il cantante lo ha conosciuto, e quando il matrimonio di Mary è naufragato c'era Freddie accanto a lei per aiutarla a ricominciare. Adesso è Freddie che ha bisogno d'aiuto. Gli esami del sangue parlano chiaro, lui è sieropositivo e inizia a accusare i primi sintomi della malattia che si sta sviluppando nel suo corpo. E poi un giorno decise di invitarci tutti a casa sua per una riunione e ci svelò tutti i dettagli, cose che avevamo già intuito. Roger Taylor, il batterista dei Queen, ricorda il momento in cui la malattia comincia a diventare protagonista non solo nella vita di Freddie, ma anche di tutte le persone che sono sempre state vicine a lui e quindi anche a Mary Austin, perché lei c'è sempre, è stata vicino a Freddie nei momenti felici e spensierati e lo è adesso che il destino ha scritto e sta scrivendo le ultime pagine di questa storia. Freddie vive in una bellissima casa che io ho visto a Kensington in Logan Place, e oggi il muro che circonda la casa è pieno di fotografie, di tributi, dei fan, di scritte. È una casa arredata con un gusto vittoriano, con opere d'arte, mobili antichi, a volte un po' barocchi, ma che rispettano esattamente il carattere anche un po' ridondante di Fred. Bene, dalle finestre del suo appartamento Mary può guardare la casa e stare sempre vicino, almeno con lo sguardo, al suo grande amico, direi al suo grande amore. Durante le ultime settimane di vita c'erano tanti giornalisti fuori. Cercammo di tenerli lontano, ma le affermazioni che fecero fuori dalla casa furono del tutto sgradevoli. Ormai Mary nel suo appartamento ci passa pochissimo tempo perché è sempre nella casa di Freddie, lo accudisce. Memore del suo lavoro di pubbliche relazioni cerca di tamponare i giornalisti che stazionano davanti alla porta. Insomma, c'è una caccia alle streghe con i malati di AIDS in quel periodo e in più la stampa ufficialmente non sa quale sia la malattia di cui soffre Freddie Mercury fino a pochi giorni dalla morte. E in più Freddie Mercury è uno dei più famosi in quel momento e quindi tutti sono assetati di notizie. Credo che volesse proteggere tutti quelli che stavano con lui in casa, quelli che lo curavano e si occupavano di lui, in modo che non venissero tormentati. Intanto Freddie vive nella sua villa da 4 milioni di sterline con Jim Hutton, che è il suo compagno da diversi anni, ma ha sempre vissuto con Mary a fianco e lui si affida a lei fino agli ultimi giorni, quando decide, anche perché ha già finito l'album Innuendo che rimane il suo testamento spirituale, capisce che è finita, non potrà più cantare, non potrà più cantare così bene canzoni come The Show Must Go On, la stessa Innuendo e tutti i brani di quell'album, decide insomma di interrompere le cure. Si era posto un limite e credo personalmente che quando si accorse che non poteva più cantare o che non aveva abbastanza energia per farlo, quella sarebbe stata la fine, perché la sua vita era stata il suo lavoro. Pochi giorni prima della morte di Freddie Mercury, la notizia che il cantante è malato di AIDS viene data ufficialmente e poi arriva la seconda notizia, l'11 novembre 1991, la notizia della morte. Non è più il momento dei segreti, nessuno ha più bisogno di nascondersi, nessuno tranne Mary, che ha sempre condotto una vita molto riservata e che adesso vuole soffrire in silenzio. Ma c'è ancora una cosa di cui dobbiamo parlare, riguarda quello che succede dopo la morte di Freddie Mercury, perché c'è da sistemare la questione dell'eredità e Mary e Freddie si sono fatti un'ultima promessa, è un segreto che nessuno deve conoscere. Tempo dopo la sua morte viene letto il testamento di Freddie Mercury, è un testamento che deve suddividere l'ingente patrimonio del cantante, quindi denaro, opere d'arte, case, terreni, royalties. E la grande casa di Kensington, dove Freddie ha vissuto fino alla fine con Jim Hutton, viene lasciata a sorpresa al grande e unico vero amore di Freddie Mercury, a lei, a Mary Austin. Per lei non è un grosso problema, quella casa è sempre stata la sua casa, anche se non ci ha mai abitato. Ma è talmente tanto il tempo trascorso lì dentro, con le emozioni positive prima e negative dopo, che per lei è un modo per continuare a condividere il ricordo di un uomo eccezionale che non ha mai smesso di amare. Il pianoforte a coda su cui ha composto Bohemian Rhapsody è sempre lì, al suo posto, come i quadri e i mobili in stile. Perché dovrei cambiare? Tutto ciò che mi circonda rispecchia il gusto e lo stile di Freddie. È bellissimo. La sua presenza è ovunque. Mary ha ereditato buona parte del patrimonio di Freddie, esclusi i proventi discografici che ancora negli anni alimentano invece le casse degli altri componenti dei Queen. E qui si spiega perché ogni momento esce un best, un remix, un rifaccio questo, rifaccio quello. Lei non ha mai voluto i soldi di Freddie, la sua è stata veramente una grandissima storia d'amore e oggi alcuni hanno accusato Mary Austin di avere voluto condividere gli ultimi momenti della malattia solo per assicurarsi una parte dell'eredità, ma io non ci credo. La storia d'amore tra i due è stata suggellata da tante cose, tra cui un ultimo importantissimo segreto. Una domenica, dopo aver pranzato, ci disse: so dove dovete seppellirmi, ma non lo deve sapere nessuno. Non voglio essere profanato. E queste furono le sue testuali parole. Voglio riposare in pace. Pochi giorni prima di morire, Mary riceve da Freddy le ultime disposizioni su dove verrà sepolto il suo corpo. Lui è una celebrità e il rischio che i suoi resti possano essere trafugati è molto alto, perché viene veramente adorato da persone in tutto il mondo. Basta andare a vedere cosa c'è sui muri della villa di Kensington ancora oggi. E io sono arrivato lì, trovi gente che sta piangendo come se Freddie Mercury fosse morto un'ora prima. Insomma, Mary ha il compito di raccogliere le sue ceneri dopo la cremazione, di custodirle in un luogo segreto, e lei per un breve periodo conserva l'urna nella grande casa di Londra, e un giorno, senza dire niente a nessuno, si allontana con le ceneri del cantante e le porta in un luogo che ancora oggi rimane segreto. Tempo fa è stata trovata in un cimitero a ovest di Londra una lapide che recita più o meno così: in memoria di Farrukh Bulsara, per esserti sempre vicino con tutto il mio amore. La firma di questa lapide è una semplice M. Mary Austin però ha sempre smentito che quella lapide, che si trova vicino alla zona destinata alla dispersione delle ceneri, sia stata commissionata da lei. Il segreto del luogo non verrà mai svelato, resterà come l'ultimo grande segreto che due innamorati hanno deciso di condividere al di là della vita e della morte. Abbiamo scelto di raccontare vite straordinarie ogni giorno, e quella di Mary Austin è una storia bellissima di chi, pur vivendo di luce riflessa, in qualche modo riesce a dar vita a un grande amore che va avanti anche dopo la morte, se non è un colpo d'ala questo. E noi vi aspettiamo, vi chiediamo di segnalarci altre storie che volete che noi si racconti. Fatelo al Falco il Gabbiano Chiocciola Radio 24.it, venite a cercarci sul sito di Radio 24, sui miei social, insomma, se volete mi trovate. A lunedì. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.